y yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi voglio parlare del riposo del guerriero. So che è un'omonima trasmissione di Radio 24, ma il senso un altro. Si avvicina un po' più alla famosa frase che disse la vecchietta Zarathustra quando gli dette questa massima di vita, che l'uomo deve essere educato per la guerra e la donna per il riposo del guerriero. In tutte le guerre, in tutte le epoche in cui gli uomini hanno preso le armi, comunque esisteva un côté necessario, oltre a quello del sangue, dell'assalto, della paura, dell'uccisione, della ferita, tutto ciò che comporta uno scenario bellico, che è quello della necessaria saturazione di un istinto che gradualmente noi possiamo sfumare dal ricordo nostalgico degli amori lontani, quindi le famiglie, le fidanzate, le mogli, agli amori consumati nella loro posizione di soldato, che anche qui esistono delle sottoclassificazioni, amori leciti, consentiti e corrisposti con le donne che si incontrano lungo la campagna militare, amori prezzolati e mercenari con una organizzazione che segue comunque assieme a tutte le necessari presidi alla sopravvivenza del soldato, a curargli le ferite, a smaltirne i cadaveri. C'è anche, diciamo, un'organizzazione per permettergli la decompressione fisica. È una più terribile, più detestabile, ma sempre presente in tutte le guerre e tutte le campagne, belluina necessità di stuprare le donne del nemico. È una forma considerata una vera e propria arma di guerra. Lo stupro in guerra è una delle tante maniere che si hanno per confermare una vittoria, per terrorizzare un nemico, per umiliare un nemico, per impossessarsi delle donne del nemico e quindi imporre anche la propria progenie a colui che si è sconfitto. Una cosa antica come il mondo e tuttora viene contemplata come una delle possibili maniere di procedere in campagne particolarmente difficili. Ci sono protocolli mai ammessi o difficilmente ammessi o ammessi a denti stretti che prescrivono comunque che in certe occasioni il soldato fa quella cosa, deve fare quella cosa, è normale e necessario che la faccia. Terribile, contro natura, contro ogni civiltà, ma è questo. Beh, oggi parleremo delle armi e degli amori durante le armi. Mi racconta. Si è messa una bandiera. Ah, sì? E poi una corona. Dai, sì, signore. Ho stato innamorato, vai. Sì, sì, sì. Un, due e tre, dai. Dai lontana da sto cuore e a te volo il mio pensiero. Niente voglia, niente spero, cadenette sempre a fianco a me. Sei sicura di st'amore, non mi so sicura te, oi vita mia. Vogliamo cominciare morbidi, quindi vediamo subito un'immagine trasudante, grondante di retorica. Anna Magnani fa La Sciantosa, è un film drammatico del 71 di Alfredo Giannetti con Massimo Ranieri, che sembra un ragazzino, che si chiama Apicella e fa il compositore di canzoni napoletane. Quindi vedete, esiste una profezia che poi nei tempi e negli anni si è autoavverata. Beh, Apicella compone questa canzone Il soldato innamorato, lei, la matura sciantosa destinata ad intrattenere piacevolmente le truppe durante la Prima Guerra Mondiale, esce dal palcoscenico del teatrino bellico avvolto in una bandiera, vestita da Italia, dovrebbe cantare un canto glorioso, ma in realtà di fronte a sé improvvisamente vede una platea di mutilati, di feriti. Addirittura il cieco, avete sentito, chiede al suo compagno: mi descrivi com'è? Dice: è avvolta con una bandiera. E vedendo quella disperazione di fronte a lei, quegli uomini che hanno ancora dei palpiti e dei fremiti che lei dovrebbe suscitare, ma in realtà menomati, feriti, martoriati nell'anima e nel corpo, non se la sente, strappa la bandiera e comincia a cantare, appunto, soldato innamorato. Poi naturalmente finisce anche tragicamente, perché bombardano il teatro a Trino lei fugge con il giovane Massimo Ranieri, che non ebbe coraggio di violare nella sua virginea schiettezza e ingenuità, ma lo salva frapponendo il suo corpo maturo di donna di piacere al crepitar della mitraglia. Quindi lei muore schiatta, lui si salva e, ahimè, ce l'abbiamo ancora oggi ai nostri tempi a cantare. Beh, questa mattina abbiamo un esperto che è un documentarista, è una persona che si è portato libri, immagini, fotografie, alcune dicibili, alcune che avremo difficoltà a descrivere, ma mi prenderò io quest'onere visto che ormai mi sono dannato l'anima, che Marco Pizzo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Che abbiamo avuto già con noi quando abbiamo parlato del 4 novembre, direttore del Museo Centrale del Risorgimento, che ci ha portato una vasta documentazione di quelle che sono le prove documentali di questo rapporto fra soldati e passione, amore, sesso, violenza legata alla pulsione sessuale. Da dove cominciamo, Marco? Possiamo iniziare proprio dal Risorgimento, cioè dall'Ottocento, in cui i rapporti proprio tra la guerra e gli impulsi sessuali, e quindi le donne, si fanno comunque più stretti. Tutte le guerre risorgimentali vedono accanto all'esercito regolare dei veri e propri strutture di amore a pagamento che seguivano le truppe e i militari, con anche una differenza di grado. Cioè c'era una specie di circo ambulante fatto di prostitute per i soldati. Certo, tant'è che spesso proprio il comando supremo dell'esercito deve decidere di regolamentare queste attività che spesso andavano ad intralciare le operazioni belliche. Accanto a questa forma più o meno istituzionalizzata di mercimonio del sesso, esiste tutta quanta un'attività parallela di quelle che sono le attività amorose e sessuali dei padri della patria. Sappiamo, per esempio, che uno degli eroi del Risorgimento italiano, che è Giuseppe Garibaldi, Non ne salvava una. Non ne salvava una, ma aveva un rapporto con il mondo femminile del tutto particolare, perché nell'Ottocento c'è la prima emancipazione delle donne e alla Maddalena aveva un vero e proprio carnet di ricevimento del sesso femminile che si prenotava con lui venendo dall'Inghilterra e andava a far visita al generale con uno specifico scopo non troppo... Quindi c'era un turismo sessuale indirizzato a Garibaldi da parte dei signori inglesi? Certo, un turismo di elite, diciamo così, perché era proprio la sfera più emancipata della società, che comunque non aveva remore a fare queste proposizioni. La cosa singolare, che io una cosa simile me la sono sentita raccontare dalla viva voce di Graziano Mesina, il bandito sardo barbaricino che nella sua biografia, ma lui stesso me l'ha confermato, racconta che c'era anche lì questo pellegrinaggio di queste signore che andavano appunto nelle zone dove sapeva che lui fosse rifugiato e glielo portavano lì e lui si concedeva gradualmente. Quindi innanzitutto il soldato, il combattente, soprattutto se aveva questo alone un po' misterioso, corsaro, bandito, avventuriero, era chiaramente una grande attrattiva, ma per il soldato semplice, per la carne da cannone, in realtà le cose erano ben diverse. Erano ben diverse, anche la proposizione di merce era ben diversa. Tant'è che l'attività parallela che veniva organizzata aveva dei precisi punti di riferimento con una catena da montaggio. E queste cose venivano anche mal tollerate da parte dell'autorità, pur se venivano in qualche maniera subite per quello che riguardava i grandi centri cittadini. Il fatto che comunque tutto questo si verificasse durante la guerra, la battaglia, denota comunque il fatto, un concetto più profondo, cioè che la guerra è come una pausa di razionalità. Era un momento in cui tutto era permesso, tutto era lecito e anche le cose non quotidianamente accettate dall'etica e dalla morale venivano in qualche maniera accettate o subite da parte dell'establishment. Ecco, io volevo dare una suggestione, probabilmente comporterà un salto temporale, ma quello che ci interessa questa mattina è definire un continuum, un atteggiamento generale dei combattenti con questa sfera a volte misteriosa, a volte anche brutalmente affrontata, che è quella del mondo femminile. Questo mi permetterà di fornire agli ascoltatori, potranno chiamare all'800 24 0024 qualcosa di più fresco e più vicino ai loro ricordi. Una situazione molto simile a quella che ha descritto Marco Pizzo riferendosi alla fase del Risorgimento è stata descritta da Kurz Malaparte nel suo libro La pelle, quando lui in quel periodo, parliamo del 1944, la zona è Napoli, salivano gli alleati liberatori, lui che era un ufficiale di quello che rimaneva dell'esercito regio, faceva un po' da interprete e da guida al comando americano e passa per Napoli, e per Napoli naturalmente il titolo stesso La pelle dimostra che in fondo l'aspetto della carnalità e del mercimonio di carne, di passione, di amore, di sesso nei confronti dei liberatori, che erano gli uomini che portavano il benessere, portavano il denaro, portavano tutto, è la chiave portante di questo film. In una rilettura di Liliana Cavani in un film dell'81 vi facciamo sentire soltanto un assaggio di quello che è il vociare sotto un bordello popolare in cui sotto stanno tutti gli americani di tutti i colori, di tutte le conformazioni fisiche che vogliono entrare nel casino dove le signore napoletane, improvvisamente euforizzate da questo nuovo benessere, cercano di tenerli calmi. Ehi! È vero che qui hanno gli spaghetti sopra la mince? Sì, col pomodoro sopra. Ehi, facci assaggiare le linguine. Vogliamo assaggiare la panaglia? Il prezzemolo. E il peperoncino. Siete in ascolto di Radio Forze Armate Alleate in Europa. Avete ascoltato Glenn Miller e la sua orchestra. Preoccupati della sifilide? Le malattie venere possono causare danni più gravi della guerra, ma grazie alla penicillina... Ehi, Goldberg, l'hai sentito? Glenn Miller suonava a 7000 miglia da qua. Per la sifilide a te non te ne frega proprio niente. Te la sei fatta davvero con la contessa, Jimmy? Te l'ho già detto, Goldberg. Beh, ridimmelo un'altra volta, ma proprio bene, nei dettagli. Vai troppo in fretta. T'ha fatto un po'... Senti... In Europa, te l'ho già detto, è normale. Ti devi mettere in testa che le europee sono differenti. Senti, Goldberg, invece di stare lì a menartelo su quei giornaletti di merda, con 3 miserabili dollari ti levi tutte le voglie che hai. Ma che sei matto? Ce l'hanno inzuppato tutti i negri dell'esercito dentro a quelle mignotte. Te li sei scordati i documentari su cosa ti succede al pisello se ti becchi la scuola? Sempre meglio che diventare ciechi. Quante sono queste? Eh? Lo vedi? Sei già cieco, Goldberg. 800 24 0024, ricordi forti, ricordi crudi, ma questa è l'accoppiata Malaparte Cavani, non poteva essere che un film che riporta il realismo di quello che poteva essere un dialogo fra appunto il giovane Malaparte, soldato italiano della parte dell'Italia che si considerava vincitore, ammesso che possa essere considerata una vittoria, e l'americano, che si scambiano impressioni molto maschili appunto alla vista della possibilità di poter consumare amori prezzolati. Ecco, Marco Pizzo, attraverso tutte le guerre che sono contemplate nel tuo museo e nelle tue carte, esiste anche un problema sanitario non indifferente che andrà affrontato in qualche maniera. Il problema sanitario era molto forte, tant'è che non solo c'erano una serie di prescrizioni sanitarie e di comportamenti che dovevano essere seguiti, ma veniva usato spesso proprio come un deterrente per evitare eccessi di questo... Quello che dice il soldato americano, invece, come non te l'hanno detto, la radio americana addirittura informava i soldati sul pericolo delle malattie venere. Nei giornali di truppa che venivano fatti durante la Prima Guerra Mondiale, erano dei giornali di trincea autogestiti dalle singole compagnie, dei giornaletti molto particolari perché erano sì giornali dell'esercito, ma ci scrivevano anche scrittori, le illustrazioni erano di Sironi, cioè... C'erano delle sezioni dedicate proprio all'informazione sanitaria, perché era considerata fondamentale per le truppe e i giornali di truppa o di trincea erano il veicolo privilegiato. I presidi erano soprattutto preventivi, c'era la stanza, io ricordo che ancora esisteva, al tempo che ho fatto il militare, una sorta di presidio in cui mettevano il permanganato, che era un liquido bluastro che doveva servire a salvaguardarsi dalla sifilide. Era un ricordo che apparteneva ad altre epoche, però ancora esisteva questa sorta di presidio luetico, qualcosa del genere. C'era la paura comunque forte che i soldati, oltre a rischiare la vita per le pallottole del nemico, la rischiassero anche per le malattie. Le malattie venere di trasmissione sessuale sono sempre state uno spauracchio per gli eserciti. Ricordo per inciso che uno dei primi trattati in volgare italiano è proprio De sifilis sive morbo gallico, composto e scritto in volgare italiano nella metà del 200, per preservare gli eserciti proprio dalla diffusione di questo morbo. Infatti noi lo chiamavamo il mal francese perché sembrava che lo prendessimo le lenze Chinecchi, ma loro lo chiamavano il mal italiano o qualcosa del genere. Proprio perché era un male, quindi a seconda della sponda dell'esercito veniva così chiamato. Ricordo ancora, questo lo ricordano i perugini di Côté più tradizionalista, quando arrivò il comando americano a Perugia, l'hotel Brufani, l'albergo più importante della città, fece un grande ricevimento e tutti i perugini che volevano accogliere festosamente i liberatori, delle famiglie che contano, furono invitati a questo ricevimento, andarono le famiglie notabili di Perugia, ma fecero entrare gli uomini e alle donne e fecero l'esame per la sifilide con un ospedale da campo che hanno messo fuori questo albergo, una sorta di idea di umiliare questi italiani che fino alla settimana prima avevano tutti la camicia nera. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Per quanto riguarda le donne, la guerra è da sempre. È la cosa più eclatante che abbiamo imparato a scuola, l'amore che c'è tra Paride, Achille, Ettore e tutto il resto. Quindi, cioè fra loro come uomini voleva dire? Ma lì, oltre agli uomini andavano anche le donne. E le donne hanno sempre seguito l'esercito per tanti motivi. Uno, perché all'inizio ognuno poteva godere delle delle fattezze delle proprie donne e della sua tribù. Io parlo già in antichità, in preistoria, e così via via. Durante la guerra ci sono state sempre queste cose qua. La cosa più brutta, che invece poi vedremo, è durante una buona parte della seconda guerra mondiale, quella che viene chiamata resistenza o guerra civile, che dir si voglia, dove noi vediamo che gli inglesi, i francesi, eccetera, diedero carta bianca ai vari marocchini, e la Ciociar, il famoso film di Sophia Loren, è un grandissimo esempio, in cui queste forze belligeranti che occupavano l'Italia avevano pieno diritto di poter godere delle donne italiane. Sì, lo accennai già all'inizio della trasmissione. Viene considerato un sistema previsto nei manuali di guerra, per quanto aberrante, di infliggere una sorta di umiliazione che permette di avere ancora più possibilità di dominare il nemico. È vero, questo è molto legato anche all'aspetto, diciamo, adesso delle malattie venere. Fino a una decina di anni fa ricordo che ancora aver fatto dei servizi con signore molto anziane della zona di Cassino che avevano subito queste terrificanti marocchinate, come venivano chiamate, cioè violenze, stupri di gruppo in interi centri abitati, che ancora si portano dietro i segni, ahimè, delle malattie avute e dei traumi in seguito a quella cosa. Grazie Antonio. Gianni. Buongiorno Gianluca Nicoletti e buongiorno al dottor Rizzo. Pizzo. Capisco allora, che l'argomento potrebbe portarla a questa deriva, ma Pizzo si chiama. Pizzo, sì, mi ricordavo perché io, forse il dottor Pizzo se lo ricorda, ho fatto una mostra insieme a mia moglie sulla Prima Guerra Mondiale e l'abbiamo presentata anche alla provincia di Viterbo, oltre che in tanti posti. Va bene, andiamo al punto, ci fa piacere. Il punto è questo, che la mostra si svolgeva su 100 lettere scritte dal nonno di mia moglie, morto durante la Prima Guerra Mondiale, in cui veniva fuori tutto l'amore di questo uomo che stava al fronte e che si preoccupava sia per la moglie che per i figli che per le vacche, per la città, e la moglie rispondeva alle amiche con una frase idiomatica di Civita Castellana che dice che passione, detto in cividonico, averlo de ciccia e baciato di cartone su una fotografia. E sta cosa, averlo di ciccia e baciato di cartone. E baciarlo di cartone. Ah, quindi aveva fatto una poesia, che passione averlo di ciccia e baciarlo di cartone. Cioè, di ciccia stava al fronte e la fotografia ce l'aveva lì e baciava la fotografia. Ah no, no, pensavo ci fosse una allusione a una doppia frequentazione mentre suo nonno era al fronte. No, assolutamente, anzi, a quel tempo le frequentazioni non so se erano specialmente in quelle situazioni di paese come era qui Città Castellana. Erano molto controllate le vedove bianche di guerra, diciamo, quelle che avevano il marito al fronte. Perché oltretutto c'avevano qui da noi sul peso, il peso della vaccheria, che c'aveva il nonno di mia moglie, e c'aveva il peso della famiglia, c'aveva il peso dell'orto, c'aveva il peso sugli uomini e sulle donne, sui ragazzi, sui figli, c'era il peso di tutto, di un'economia spostata verso la guerra, che però gravava tutto sulla famiglia. Quindi lei ha un epistolario di suo nonno con sua nonna in tempo di guerra, in cui si parla di amore, di passione, di vacche e di lavoro. E suo nonno poi è tornato? No, è morto. Ah, è morto. Quindi sua nonna è rimasta sempre con questo struggimento, che di ciccia non ce l'aveva più, ma gli rimaneva soltanto di cartone. L'ultima lettera che ci abbiamo noi non abbiamo con tutto conservato l'epistolario, sì. Tutte le lacrime sull'ultima lettera che ha letto, riletto, riletto mille volte, e sulle lacrime che arriva su questa lettera. Però l'amore era un filo conduttore. Non c'era internet, non c'erano l'UMTS, non c'era niente, ma c'era. Grazie, io la saluto, la ringrazio. Con Marco Pizzo, dopo le informazioni dalla borsa, entreremo anche in quest'altro settore più delicato, più legato al sentimento, più delicato alla struggente nostalgia del soldato che parla con gli amori lontani. Melog 2.0. Mia cara moglie, tutto questo sangue, questo rumore, questo schifo ti strappa qualcosa dalle viscere. Voglio rimanere sempre lo stesso per te. Voglio tornare da te ed essere l'uomo che ero prima. Come si arriva dall'altra parte, a quelle colline blu? L'amore. Da dove proviene? Chi ha acceso questa fiamma in noi? Nessuna guerra può spegnerla. Conquistarla. Proprio per dimostrare che esiste un continuum ininterrotto nell'atteggiamento tra il guerriero e l'amore, il guerriero e il sesso, il guerriero e la carne, il guerriero e la nostalgia, noi siamo usciti da questa trasmissione con il ricordo di un signore di Viterbo e di un epistolario tra il nonno e la nonna, il nonno nella prima guerra mondiale, la nonna che scriveva e raccontava la cura delle vacche, lui che raccontava i suoi pensieri d'amore. L'ultima lettera è intrisa di lacrime, è quella che sarà quella finale, quella terminale, poi il nonno morirà in guerra e la nonna rimarrà per sempre vedova, legata al suo ricordo. Quello che avete sentito invece è una lettera di un soldato americano impegnato nella battaglia per la conquista dell'isola di Guadalcanal nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale. È un romanzo di James Jones raccontato nel film La sottile linea rossa. Lui scrive alla moglie, poi ci sarà un film in cui tutte le atrocità e i paradossi della guerra saranno narrati, e il film terminerà con una lettera di risposta della donna del guerriero, che non è proprio quello che magari lui si sarebbe aspettato. Caro Jack, ho conosciuto un capitano dell'aviazione. Ci siamo innamorati. Voglio il divorzio per potermi risposare con lui. So che puoi negarmelo, ma te lo chiedo lo stesso. In nome di tutto quello che ci ha unito, dei ricordi. Perdonami, Jack, c'era troppa solitudine. Un giorno ci rincontreremo. Persone che sono state così vicine come noi si rincontrano sempre. Non ho alcun diritto di dirti queste cose, ma non riesco a impedirmelo. È un legame così difficile da spezzare. Oh, compagno di tutti quegli anni splendenti, aiutami a lasciarti. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento. Facciamo una deriva più romantica, più intimista, visto che abbiamo parlato di puttane e di sifilide fino adesso. Questa è una situazione tipo: il soldato scrive alla sua donna, si scambiano sentimenti amorosi, ma ci sono anche gli imboscati, quelli che rimangono in patria quando molti vanno a combattere e a rischiare la vita, che si approfittano delle mogli del soldato. La moglie del soldato è un classico, uno dei principali luoghi comuni in tutta la narrativa a Côté, appunto, le grandi campagne, dei grandi amori. Dal tuo archivio invece, cosa puoi dirmi delle lettere dei soldati? Le lettere scritte dal fronte, una delle fonti in assoluto più straordinarie per la ricostruzione, per esempio, della prima e della seconda guerra mondiale, anche perché rappresentavano l'unica forma di comunicazione tra la trincea e il resto dell'Italia. Rappresentavano il momento del ricordo, la nostalgia e anche tutta quella che era l'affettività personale. E siccome la comunicazione avveniva per forma scritta, le lettere non solo ci testimoniano quello che è l'affetto, l'amore, la passione, la sessualità degli uomini, ma a livello più tecnico ci rappresentano, ci raffigurano anche quello che era la lingua immediata, parlata dalle persone sul fronte. Tant'è che uno degli studi più interessanti sulle scritture di guerra è di un filologo, Leo Spitzer, che ha analizzato proprio le scritture degli italiani prigionieri di guerra durante la prima guerra mondiale nelle linee austro-ungariche. Ecco, c'era, mi sembra di ricordare, me ne avevi parlato, che però in effetti molte delle lettere analizzate appunto dallo Spitzer erano quelle che hanno censurato, quelle che non sono mai arrivate poi al destinatario. Qual era il motivo della censura? Qualsiasi allusione sessuale troppo esplicita. Ma di quello volevano parlare, l'unica cosa che vale la pena di ricevere non poteva essere scritta. E allora qual era l'escamotage degli scrittori? Quello di utilizzare le lettere e scrivere in dialetto, che quindi passava il vincolo della censura, proprio perché erano delle metafore linguistiche che non potevano essere colte se non da un autoctono regionale. Ecco, puoi farmi qualche esempio, hai qualche ricordo? Allora, innanzitutto è divertente o curioso osservare che la prigionia non era come la intendiamo noi oggi nei campi di concentramento. Tantissimi prigionieri della prima guerra mondiale facevano dei servizi, erano dei domestici all'interno delle famiglie bene austro-ungariche, e all'interno di questa loro attività intrecciavano amori ancillari, e troviamo spesso delle lettere molto divertenti che dicono: sono qui in Austria, in Ungheria come domestico, sto benissimo, non c'ho una donna, ce n'ho tre, tant'è che penso che addirittura una me la porterò a casa come ricordo. Un altro scrive dall'Ungheria: sono qui in Ungheria e ho trovato una donna che mi piace moltissimo e me la sposerò. Non ci capiamo, non ci parliamo, ma ci tocchiamo e questo ci basta. Beh, meraviglioso, gli italiani prigionieri di guerra erano usati come punta quinte nella storia di radici, dalle signore che li avevano a servizio come anche oggetti di sfogo sessuale o di piacere amoroso. Tant'è che anche qui viene fuori il patriottismo italiano, tant'è che gli italiani scrivono le loro lettere non alle mogli ma alle madri o ai padri. Qui italiani noi siamo molto ricercati perché siamo considerati il meglio sulla piazza, e tant'è che in Italia non penso che ci torneremo mai più. Ora, queste lettere rappresentano comunque un momento di elite all'interno dei prigionieri di guerra, perché la vita più dura era quella sul fronte, dove allora la fotografia, il ricordo della persona amata, esercitava proprio una funzione forte di legame familiare. E le foto un po' edulcorate che noi vediamo del soldatino che sta in trincea con la foto appuntata sopra la sua branda sono in effetti reali. E spesso la foto veniva portata e cucita proprio nella giubba di guerra del soldato. 800 24 0024, avete ricordi di amori consumati in tempo di guerra? Ve li hanno raccontati o li avete vissuti, visto che l'età anagrafica del pubblico molte volte sconfina in persone e possono avere avuto anche esperienza personale di questo. E ci chiama Franco. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, volevo solo dire una cosa. Io ho letto dei libri di Sven Hassel, che è uno scrittore della seconda guerra mondiale dell'esercito tedesco, il quale raccontava che effettivamente venivano dei camion, dei furgoni con su delle donne al fronte, e adesso non so se questi erano organizzati addirittura dall'esercito e questi qua, e i soldati pagavano queste donne per il sesso praticamente. Beh, ci trova qualcosa di singolare, l'abbiamo detto, è una, sì, esatto, faccia parte del presidio al mantenimento fisico dei soldati, dargli da mangiare, da bere e dargli anche il conforto fisico, sessuale. Infatti, no, devo dire che Sven Hassel era proprio, cioè, raccontato la guerra nella sua crudeltà più assoluta, e raccontava che questi furgoni con le donne arrivavano proprio al fronte, cioè anche loro correvano dei rischi molto grossi, arrivavano proprio in prima linea. Sì, quello, infatti, non credo che lo facessero per una forma di accrescimento professionale, che era proprio probabilmente un rischio che continuavano con i soldati. Marco Pizzo. C'era proprio un criterio preciso, era quello di alzare il morale alle truppe. Accanto a queste attività c'erano anche proprio degli spettacoli teatrali. Prima abbiamo sentito Anna Magnani che cantava alle truppe, ma c'erano dei veri e propri spettacoli alti e bassi. C'era Eleonora Duse che andava a recitare sul fronte, ma c'erano anche le compagnie di genere popolari in cui il ruolo dell'attrice e quello della prostituta erano molto collimanti, molto vicini. Beh, Alberto Sordi in appunto Polvere di stelle, Ando vai se la banana non ce l'hai, mi sembrava esplicito come riferimento della parte seconda che hai detto, diciamo l'intrattenimento basso, crasso, che si fa appunto in certi momenti per tenere sul morale delle truppe. Ma anche in Vietnam abbiamo famosi attrici, cantanti americane che andavano a cantare ai soldati in Vietnam. Noi abbiamo una testimonianza visiva molto aderente a questo nel film Apocalypse Now di Coppola, ecco, in cui si fanno gli spettacoli alle truppe. Sì. Ma questa è un'attività proprio gestita, organizzata proprio dall'esercito, dallo Stato Maggiore dell'Esercito, dall'autorità costituita, perché venivano considerate come delle valvole di sfogo in qualche maniera, anche semplicemente ludico, teatrale, divertente. Mentre pregherei Marco Pizzo, visto che lo sta chiedendo in molti, di trovare una lettera e leggerci qualche passo, sentiamo Carlo che ha avuto un'esperienza del nonno prigioniero di guerra. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno a te, ciao. E niente, io sono intervenuto perché a questo mio nonno sono molto legato e lui spesso e volentieri mi riporta, diciamo così, dei racconti inerenti alla Seconda Guerra Mondiale, perché è stato prigioniero a Bernau, che è una cittadina di 18 km da Berlino. E cosa ricorda? Lui riporta delle sue, diciamo così, avventure amorose dopo la liberazione di Berlino, in quanto anziché tornare in Italia ha deciso di rimanere, diciamo così, a lavorare per la moglie di un ex ufficiale dell'SS e come bracciante nel suo pezzamento di terra, e quindi ha iniziato questo rapporto lavorativo che poi è sfociato in diciamo così. E l'ufficiale non è più tornato? L'ufficiale non è più tornato, e fra l'altro lui mi ricordo sempre quando mi descrive questi momenti, me ne parla con un certo orgoglio, con un certo fervore, perché evidentemente, come tanti nostri connazionali che hanno purtroppo dovuto subire certo. Capisco che farsi la moglie di un SSS era una bella soddisfazione. Grazie, la ringrazio. Melog 2.0. Iacovacci Oreste, un santi preveggio. Iacomazzi Hernani, un santi preveggio. Iacovacci Oreste, un santi preveggio. Pascucci Mauro, eccomi. Quante lettere ricevi te? Gagliardo, chi là che ti scrive? Sono la madrina de Guera. Io scrivo una lettera, poi faccio copia conforme. Oh, vedi, ecco qua, c'è la sorpresina pure a questa. Ti legge la lettera tu. Come mai che a te non scrive mai nessuno? Dammi un prosco. O chi vuoi che mi scrivi a me? Bordì Giuseppe! Oh, passa qua, dammi! Usacca Giovanni! Oh, a me. Questo è un pezzo che abbiamo già sentito proprio in una trasmissione in cui c'era Marco Pizzo, dedicata al 4 novembre. È l'istituzione che si preoccupa non soltanto dei bisogni fisici e sessuali dei soldati, ma anche dei loro bisogni emotivi, sentimentali. Le madrine di guerra che mandano lettere a chi non ha una fidanzata, a chi non ha moglie, e suppliscono con questo anche un bisogno. Ma anche per i bisogni tipo fisico, ricordo a braccio, girano varie leggende metropolitane belliche di una famosa fabbrica di bambole gonfiabili che avevano preparato i nazisti, perché nel sacco di ogni soldato ci fosse anche la bambola gonfiabile. Poi fu bombardata, la guerra finì e non furono mai usate, ma fu scelto un modello di donna ariana, scegliendo una grande attrice che aveva la fattezza di questa bambola. E poi ricordo che in Europa fino al tardo 1800 si vendevano le dame de voyage, che erano delle pupattole fatte di pezza, di stracci, di vestiti, che le mogli stesse davano agli ufficiali di marina che stanno molto tempo in navigazione, perché ne facessero uso promiscuo, evitando magari di cedere a tentazioni omosessuali. Curavano in particolare la parte intima, che era fatta in caucciù e cose del genere. Ecco, dopo questa mia digressione abbastanza cruda, con Marco Pizzo abbiamo detto leggiamo qualche lettera d'amore di soldati in prigionia che si rivolgevano alle mogli lontane. Questa è una lettera del 1917 mandata da un prigioniero italiano in Boemia. Pregate Dio che la guerra duri ancora a lungo, poiché quando tornerò a casa sarà un pensiero per voi e specialmente per mia moglie. Sono diventato un animale, e l'animale è ancora robusto, ma le donne di qui mi tolgono la forza, ce l'ho sempre addosso. Beh, è singolare, questo è un aspetto poco conosciuto. Noi tendiamo sempre più a mettere retoricamente in primo piano quello che è l'afflato e il senso di nostalgia per l'amore lontano nella propria terra e nella propria patria. Ma in realtà che il prigioniero ha una meravigliosa prospettiva di nuovi amori, di nuove conoscenze, di contaminazioni diverse, questo è un lato poco conosciuto. Perché è poco conosciuta l'attività proprio delle prigionie della Prima Guerra Mondiale, in cui c'era questa occupazione libera come dei veri e propri campi di lavoro. In un'altra lettera, sempre dello stesso periodo, ecco un soldato cosa dice: dormi in una casa con una bella donna che non mi fa mancare niente, penso che a casa mia mi vedrai molto lontano. Beh certo, se penso alla situazione che lasciava alle sue spalle, famiglia numerosa, problemi di sopravvivenza, figli, mogli baffute che aspettano, ma viva la prigionia in quel caso, ce ne sono ancora. C'è un altro che dice: non prego per nessuno se non per me stesso, qui io sto benissimo, per il mio onomastico una donna mi ha regalato un fazzoletto bellissimo del valore di 10 lire, un altro un bellissimo orologio, una terza un anello, per farla breve la guerra mi ha fatto felice. Ecco, tu mi hai dato, e qui ce l'ho qui davanti, una rassegna molto interessante di una mostra che è stata fatta a Rovereto, La donna del soldato, di cartoline di guerra destinate ai soldati e che si scambiavano i soldati. Qui c'è una doppia lettura del rapporto amoroso e anche sessuale. Il nemico è sempre quello che stupra le nostre donne. C'è una foto dell'Italia fascista con un soldato di pelle nera che prende una donna, gli strappa i vestiti d'osso, dice: difendila, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia. Poi invece no, invece quando gli italiani erano in terra di occupazione avevano sempre dei grandi e travolgenti amori. Sì, c'è una doppia lettura, perché il soldato è sempre l'invasore e come invasore deve in qualche maniera stuprare e marcare il territorio. L'italiano invece che combatte e va in terra nemica è sempre un gentiluomo e Latin lover. E anche nella produzione più popolare viene avvallata questa idea. Queste cartoline avevano una enorme diffusione e l'italiano è sempre guardato con cupidigia dalle donne dei paesi stranieri ed è mai toccato dal seme della violenza. Ce n'è una anche molto allusiva, in cui una signora con l'occhialetto, una signora di una cartolina italiana del 1904, Arma moderna. C'è una signora con l'occhialetto, con l'ombrellino, che guarda con attenzione un baldo soldato, al cui spalle però un cannone troneggia in maniera molto sospetta, in prospettiva, dando un'allusione di tipo sessuale. Un'altra in cui l'ufficiale nemico rientra a casa e trova la moglie con il fantaccino italiano nascosti dietro il letto, che gli tirano pitali e ciabatte. E poi c'è sempre questa storia del bersagliere, dell'alpino, del soldato che viene furiosamente assalito da donne grate a lui perché difende la patria o appartenenti appunto al nemico. Immagino questa sia una signora inglese, perché c'è un puttino con le alucce, con il tipico elmetto inglese in testa. Ci sono anche delle fotografie molto interessanti, singolari per l'argomento. C'è il soldato con accanto la bomba e l'iscrizione sotto, autografa del soldato: ecco la mia sposa, la mia donna. È questo senso quasi anche di vedere la donna e il rapporto con l'arma. Ed è una simbologia bellica che fa proprio intendere come la guerra sia un territorio diverso. Beh, io ricordo le canzoni degli Arditi: le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera. C'è sempre questo senso che il soldato abbraccia la morte, sposa la morte. In fondo il suo fascino è che ogni momento potrebbe morire, quindi ogni momento che una donna rinuncia a questo fantastico possesso del guerriero è un'occasione perduta. Ecco, riguardo appunto, io ho citato gli Arditi, il tema dell'amore, della guerra, del guerriero, del riposo del guerriero, toccato in questa fase estrema della guerra, considerata come un momento poetico. Questo è l'anno di Marinetti, su questo hai qualcosa nel tuo archivio? Allora, c'è il manifesto del Movimento Futurista, che è del 1909. Qualche anno successivo è un altro manifesto futurista sulla libertà sessuale delle donne. Una propaggine del futurismo è sicuramente l'avventura di Fiume del 19, e a Fiume c'era un senso quasi orgiastico della guerra e addirittura nei corpi fiumani venivano arruolate come soldati delle donne, favorendo una enorme promiscuità e veniva proprio vista come festa della rivoluzione. C'è Claudia Salaris, ha scritto un bellissimo libro che si intitola proprio La festa della rivoluzione, l'impresa fiumana, che fa vedere proprio come Fiume fosse un momento di euforia rivoluzionaria che abbandonava qualsiasi morale, qualsiasi etica sessuale. È quello che tu mi dici, mi ricordo un libretto avuto nelle mani proprio questi giorni che mostra le foto proibite, censurate dei blog di soldati e soldatesse americane nell'ultimo fronte medio orientale, cioè in Iraq. Le foto censurate, a parte quelle detestabili di Abu Ghraib, dove la soldatessa americana si fa vedere in maniera allusiva su queste pile di soldati iracheni nudi per mortificarli, ma anche lì c'è un forte richiamo sessuale. Molte soldatesse americane fanno foto di loro stesse nude in pose provocanti, però con le bandoliere delle mitragliatrici, con la mitragliatrice in mano. È un'iconografia che forse sarà la pagina finale di queste tue raccolte. La soldatessa è dea della guerra, nuda, poi sempre poppute, molto abbondanti come sono le floride ragazze americane, ma coperte di bombe a mano, bandoliere, mitragliatrici enormi. E questa iconografia fotografica paradossalmente è quella che meglio eredita tutta una tradizione ottocentesca. La dea guerriera era l'unico momento in cui veniva ammesso nell'Ottocento il nudo femminile. La personificazione della donna guerriera era il sesso assoluto. Ringrazio Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti che collaborano ogni giorno fattivamente a questa trasmissione e molte volte dimentico, a me colpevolmente, di ricordarli. Ringrazio Marco Pizzo e ricordo alla fine che è molto divertente pensare che viene lecitamente ammessa l'unità femminile se a questa nudità viene contrapposta la possibilità che questa porti una spada in mano. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.